Ore 21 qui su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Dopo una settimana di assenza torna a prove tecniche di trasmissione. Spazio dedito alla sperimentazione, all'industrial, al noise. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Non so dire se oggi rientrerà anche 25 o'clock, magari lo scoprirò strada facendo. E comunque cominciamo a salutare le varie persone che sono all'ascolto in questo momento. E allora Maya dalla Sardegna, al pari di Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Anna qui a Roma, Dario Righi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. A Cortina d'Ampezzo c'è Tabula Rasa. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, del quale sta per uscire un nuovo lavoro, Il Medico della Peste. In Olanda c'è Simona Moschita de Miramar ad Harlem. Un saluto anche a Like Wake, Valerio Michetti e Alessandra Trinity Bersani della Grazia Obliqua. E anche Umanima per quanto riguarda Valerio Michetti, Cecilia Miradoli di Pindar. E andiamo a riprendere un album che ci siamo ascoltati due settimane fa, un album che proviene dalla scuderia Dissipazio di Nicola Quiriconi, etichetta che ormai è una solida realtà sperimentale qui in Italia, se non erro un'etichetta proveniente dal Veneto. Ebbene, dalla Dissipazio ci andremo ad ascoltare una colonna sonora, in realtà di una performance di danza contemporanea di Karin Fauer, appartenente a The Star Below di Paolo Monti. L'album si chiama We Were Never One. E ci andremo ad ascoltare una lunga traccia, la quinta, Radical Hope. Risvolti da un lato ipnotici, dall'altro ombrosi e rarefatti, sono aspetti assai frequenti nelle opere di The Star Pillow. Anche questo We Were Never One, un album uscito quest'anno per la Dissipatio Records, etichetta che da un po' teniamo sott'occhio, tra le più interessanti dell'ultima generazione italiana. Ancora altri saluti, Enrico Ponzoni di Sokunshi Butsu Project, che vidi qui a Roma qualche tempo fa in un club ormai non più esistente, che è scritto la storia degli ultimi 4 anni dal nome Klang. Risaluto Sara Cappa Fontana, Jean Coberto che sta in Val d'Aosta, un saluto a Sisto Palombella che manderemo a breve. Solar Lodge nella persona di Fulvio Biondo. Ancora Italia e andiamo indietro negli anni, se non erro, andiamo nel 2019. Un'altra etichetta italiana interessante, ma ancora più sotterranea della Dissipatio, è l'Aural Temple, una etichetta marchigiana, fondata da Emanuele Fais, che chiaramente ha anche dei progetti insiti in questa label. Tra gli altri questo Boschivo, un album del 2019 dal nome Bardo dell'autodistruzione, ancora più intriso di fascino arcano ed esoterico. Lo ricordiamo anche come Pioggia d'Ambra, altrettanto interessante. Ebbene, questo lavoro si apre con Pozzo Oscuro e la danza perversa delle falene. Thank you. Il pathos drammatico, le diverse soluzioni sonore attuati da Boschivo in questo bardo dell'autodistruzione, il neofolk, ma anche soluzioni più vicine al kraut rock e a dinamiche più prettamente sperimentali. Emanuele Faes, che peraltro è anche grafico, scarse notizie su Facebook e dintorni, ma c'è comunque su Bandcamp l'Aural Temple, che contiene tanta buona materiale, tanto materiale sonoro di ottima qualità. Due note scritte nell'album: questo disco è la sublimazione di una vita intera, l'addio ad un passato pieno di ossessione e tormenti, un addio senza rancore, anzi colmo di gratitudine per le lezioni impartite. È un processo di purificazione alchemica, dalla notte buia dell'anima al suicidio rituale, dalla morte ad una rinascita luminosa sotto una nuova grandissima consapevolezza. Ma prima di ogni cosa, questo disco è una coraggiosa presa di posizione sulla realtà, un totem eretto con fierezza tra le lapidi di un mondo che sta soffocando. Soffocando sotto i suoi stessi miasmi sepolcrali, esalati dalle illusioni dogmatiche della logica e della razionalità. Un totem che reca una breve incisione: la magia esiste e non in senso metaforico. Queste sono le riflessioni di Boschivo in questo album del 2019. Si saluta Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. E vado a risalutare Paolo Monti di The Star Pillow, con il quale abbiamo aperto questa trasmissione di oggi, 21 settembre 2022. Ce lo godremo anche la prossima settimana, al pari di questi Laibach. Wir sind das Volk, ultimo lavoro per Laibach. Un album particolare tra naturalmente rumori neoclassici, Martial, ma anche episodi di vero e proprio cabaret visionario, quasi da musical dell'assurdo. È un album che si basa sullo scritto di Einar Müller. Ci ascoltiamo a Flieger, Grüß mir die Sonne e Ordnung und Disziplin, con versi anche di Bertolt Brecht. Zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond, mein Leben. Das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinen Mädel mit nach Haus. Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond, dein Leben. Das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinen Mädel mit nach Haus. Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond. Disziplin. Le dissonanze oblique di Laibach, imprevedibili, la loro austerità marzial percussiva, ma anche questi fraseggi precedenti a livello di cabaret, con svariata anche autoironia ed ironia verso certi aspetti del popolo tedesco, citazioni di Brecht. Insomma, i Laibach ci hanno abituato alla sorpresa. Ricordiamo, come giustamente ci dice Simona, anche capitoli ben diversi, più elettronici, per esempio Capital, ma anche i primi lavori più prettamente monumentali industriali, Opus Dei, l'esordio proprio dal nome Laibach, che ricordiamo è il nome asburgico di Ljubljana, la capitale della Slovenia, da dove provengono. Wir sind das Volk. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe ein, zwei Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war. E su questo recitato in tedesco invece andiamo ad annunciare il prossimo artista, che invece è italiano, è un genio della fisarmonica e si chiama Sisto Palombella, che vado a risalutare. Einen toten Fleck gesehen. Ein Stück Wüste. Recentemente ha stampato questo lungo lavoro, questo 16 tracce dal nome Le Civette, peraltro sul suo profilo Bandcamp sono uscite anche dei nuovi brani. Ci ascolteremo da questo Le Civette, La polvere dei secoli, un brano che va un po' a ricordare come possono esistere delle situazioni al pari degli oggetti dimenticati nel tempo, poi ci si ricorda ed è magari più difficile mettere a posto e togliere la polvere, in senso anche figurato. E poi ci ascolteremo il Geco Ubaldo, Sisto Palombella. Text zu vergessen, ich bin ein Sieb, immer mehr Worte fallen hindurch, bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. Musik. Thank you. le immersive strutture armoniche ideate da Sisto Palombella con la sua fisarmonica usata come sintetizzatore acustico, dalle civette album dedicato a Elisaveta Fedorova che partecipa anche in un brano. E leggo due cose scritte sul profilo Bandcamp, vi invito a farlo in maniera più approfondita. L'idea generale di quest'album è quella di voler creare una serie di personaggi che abitano non in una casa cittadina di tipo moderno, ma in una vecchia casa di campagna dove si sono vissuti e si vivono ancora momenti quasi bucolici. Si è voluto umanizzare insetti, animali, persino un raggio di sole, e le civette guardano tutto questo da quel ramo lassù. Brani per lo più improvvisati, alcuni totalmente, alcuni parzialmente, dal vivo con effetti, con riverberi, delay, flanger, cori e poi magari elaborate successivamente. La fisarmonica utilizzata è una Bugari, o Bugari che dir si voglia, a bassi sciolti, come tecnicamente ci dice Sisto Palombella. Registrazione effettuata in casa con un programma Audacity scaricato da internet. Saluto Giulia e Serena qui a Roma e il buon Orlando Furioso dal Piemonte. Noi si va avanti. E da Sisto Palombella, e si dice Bugari, come leggo, se leggo bene l'accento, e da Sisto Palombella, da Bugari e dalla sua fisarmonica, andiamo in Giappone. E naturalmente andiamo a saccheggiare il materiale del buon Raffaele Pezzella in questa Anthology of Experimental Music from Japan. Questa sera uno dei pochi nomi noti di questa compilation, Contagious Orgasm, l'orgasmo contagioso, e Yuko Akari, rispettivamente con Going Round and Around e Glitchy Giza. nipponiche schegge impazzite dal cilindro magico di Raffaele Pezzella, questa anthology of experimental music from Japan, Japanese Music Survey. Protagonisti tra i più visionari di questo compendio sia Contagious, Orgasm e Yuko Araki. Buonasera Paolo Contucci che ci sta ascoltando da Roma Est e Lucia Cagliazza, ottima musicista dal nome Lupsi, ci sta ascoltando dal Friuli.